Pochi, pochissimi, forse nessuno, si sono accorti della coincidenza rappresentata dal fatto che lo stesso giorno in cui la Camera dei Deputati ad altissima maggioranza negava l'autorizzazione all'arresto dell'onorevole Previti, i giornali davano notizia, invero assai parsimoniosamente, di come un magistrato di Roma, una tale dottoressa Longo, giudice di sorveglianza, avesse negato l'applicazione dei benefici della legge Gozzini e quindi la possibilità di uscire di galera al professor Negri, che, salvo errore, è l'unico detenuto italiano in stato di detenzione grazie a un provvedimento della Camera dei Deputati, che a suo tempo, quando lui ne faceva parte, non ebbe difficoltà ad accondiscendere alla richiesta dei giudici desiderosi di arrestarlo. È una coincidenza, certo, che c'è solo per chi la voglia vedere. L'autorizzazione a procedere contro Negri è roba vecchia, è dell'83, ed è stata concessa da una Camera tutta diversa per composizione politica e atteggiamento generale da quella di oggi. E Negri, è dentro ancora, non perché ci sia dall'83 naturalmente, ma perché quando i suoi colleghi deputati si pronunciavano in quel certo modo sul suo caso, ebbe la sagace idea di abbandonare il paese e di rifugiarsi in una terra tradizionalmente più rispettosa dei diritti civili dei perseguitati politici. Però l'anno scorso, per motivi che non staremo qui ad indagare, ma in cui evidentemente aveva parte un certo eccesso d'ottimismo su come fossero cambiate le cose nel nostro paese, è rientrato, si è debitamente consegnato alla giustizia italiana e questa adesso gli nega la scarcerazione perché la polizia, uopo interpellata, non può escludere un suo proposito di fuga. Che uno si sia costituito allo scopo di fuggire non lo può escludere soltanto chi non si preoccupa troppo della logica e della verosimiglianza, però con la formula del non si può escludere si possono affermare le ipotesi più strane. Io per esempio non potrei neanche escludere che Previti sia innocente, per fare un esempio a caso. Il fatto sta che adesso Negri è rinchiuso a Rebibbia o dove altro e nessuno dei molti deputati che a proposito di Previti hanno discettato su quanto sia grave permettere l'arresto di un membro del Parlamento si è ricordato di quell'interessante precedente che credo sia assolutamente unico del suo genere, perché in 50 anni di storia della Repubblica le autorizzazioni all'arresto dei deputati mi sembra siano state 4, ma salvo errore non mi risulta che oltre a Negri qualcuno sia effettivamente finito dentro. E si badi che lui in definitiva è l'accusato di delitti squisitamente politici, perché una volta caduta l'accusa di essere il leader delle BR, di aver sequestrato Aldo Moro, di aver messo in atto un'insurrezione armata contro lo Stato, di aver promosso la rivolta del carcere di Trani, l'unica imputazione restata in piedi, che gli è valsa la condanna alla bazzecola di 13 anni e 2 mesi, restava quella di concorso morale in un certo numero di fatti di terrorismo. Morale. Come a dire un'accusa di essere un ideologo e un cattivo maestro e di essere naturalmente antipatico a tutto il paese, ma neanche i Previti, come abbiamo visto la settimana scorsa, non è un mostro di simpatia, per di più accusato di sostanziosi delitti non politici, eppure per lui la protezione dei colleghi è scattata immancabilmente. Ammetterete che può valer la pena di interrogarsi sui motivi dei due atteggiamenti così diversi, anche se sono separati da un abisso di 16 anni. Io credo che la soluzione non sia difficile. Ne ho intravisto la chiave in una cosa che ha dichiarato mercoledì sera proprio qua ai microfoni di Radio Popolare la dottoressa Paciotti, che è presidente o segretaria, non so bene, di Magistratura Democratica, quindi di queste cose deve intendersene. Neanche lei, a dire il vero, si ricordava di Negri, anzi, ne aveva completamente rimosso la memoria, tanto è vero che ha affermato che il Parlamento ha sempre negato l'autorizzazione ad arrestare i suoi membri. Ma quando ha cercato di dare una motivazione di questo supposto rifiuto, l'ha azzeccata in pieno. Il Parlamento ha detto difende la sua composizione politica. Come dire che afferma una certa solidarietà tra i suoi membri in nome della comune investitura politica del comune ruolo di rappresentanza degli elettori, un ruolo che ovviamente esige una certa protezione dalle accuse di origine extrapolitica, che potrebbero essere state architettate proprio al fine di impedirgli di svolgere il suo mandato, che è poi questo in ultima analisi la questione che altrimenti suonerebbe un po' vaga del fumus persecutionis di cui abbiamo tanto sentito parlare. E allora capirete che problemi non ce ne sono. Nell'83 la Camera ha negato la protezione a Toni Negri perché non lo considerava un suo membro a tutti gli effetti, perché riteneva che la sua storia politica, il modo con cui era giunto in Parlamento, fossero estranei alla prassi e alle procedure che ammetteva. Invece la Camera del 98 ha sanzionato l'intangibilità di Previti perché riserve del genere su di lui non ce ne sono, e quali che sono gli atti che gli si imputano non bastano a mettere in discussione la sua natura di legittimo rappresentante del popolo. Ogni popolo ha i rappresentanti che si merita, certo, specialmente in un sistema sia pur parzialmente uninominale. Se un certo numero di elettori hanno affermato la volontà di essere rappresentati da Previti, era il loro diritto e che Dio li perdoni. Ma nel nostro sistema giuridico i deputati dovrebbero essere tutti uguali. E invece è abbastanza evidente che nel sistema politico concretamente operati certi deputati finiscono per essere più uguali degli altri, come i maiali nella fattoria degli animali di Orwell. La cosa non è esattamente di buon auspicio per quelle riforme che, a quanto si dice, il voto su Previti avrebbe reso finalmente possibili.